Semin du, semin tri, el du cerle fini, e du manghe farò, giamo pie. Semin du, semin tri, el du cerle fini, e du manghe farò, giamo pie. Ennisen salmen om och bedyna grannmåda det gen Sette för ett chaman Famusen kulla man Med sån brun Ett padum na be Semin du, semin tri El du kället di E du manga saro Jamo pjör Semin du, semin tri El du kället di E tu manca sarò, diciamo più. Dice fan troppo tu man, se sul tuo diavolo sta, e ne verri risponta di sé. E adesso che sei giù, con la faccia del luc, che già vuoi della mare il fulce. Se io sfira il pehu, questa sfira è perdu, e intera che tu cammini. Capì, è il mio fusil della di, è intera che tu capì. Semin tu, semin tri, e il cucello è finì, e tu anche sarò giamo più. Semin tu, semin tri, e il cucello è finì, e tu anche sarò giamo più. Semin du, semin tri, el tu cerle è fini, e du manche sarò, giamo pieno.